Orizzonti. Fotografie sonore dalla Campania multiculturale. Che lavoro fai? Come ti chiami? Come inizia la tua giornata? Siamo tutti diversi o siamo tutti uguali? Dimmi tre ricordi che porteresti con te ovunque. Quante lingue parli? Qual è secondo te una cosa inspiegabile dell'Italia? Gli alieni ti danno uno speciale raggio laser per togliere la cosa più brutta del pianeta. Che cosa vuoi togliere? Qual è il tuo colore preferito? Cosa vedi all'orizzonte? Senta. Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! In questo episodio, Sara. Mi chiamo Sara Mutmir. Lavoro come mediatrice culturale. Mi occupo soprattutto, di mediare, meglio che mediare, e assistere lavoratori di origine non italiana nel mondo del lavoro. Assistenza amministrativa, assistenza fiscale, quello che loro non riescono a comprendere bene, io cerco di aiutarli. Ho 24 anni e la mattina quando esco di casa vedo un traffico assurdo. È una strada che collega il comune di Bellizzi al comune di Battipaglia, quindi è molto, molto piena di macchine, ecco. La mia mattina inizia con un buon caffè all'italiano, un buon espresso direi. È abbastanza frenetica la mia giornata. Finisce che sono stanca, morta, che voglio buttarmi a letto e pensare a domani ovviamente. Nel mezzo della mia giornata guardo molto i social. Io e il mio telefono siamo molto affezionati. In realtà, un piccolo segreto. Mi piacerebbe vivere in una casetta in campagna, senza macchine, senza clacson, forse anche senza wifi. Chissà se riuscirei a viverci. Non sono nata in Italia. Nemmeno i miei genitori sono nati in Italia. Però se mi chiedono di dove sei, io dico sono di qua. Di Salerno, di Battipaglia. Parlo perfettamente l'italiano, come parlo perfettamente il dialetto marocchino. Piccolo segreto, l'arabo non lo so scrivere e non lo so nemmeno leggere, però lo parlo. Me la cavo nel francese e anche nell'inglese. Non ho problemi di comunicazione. Non ho una bella voce da cantante, però sotto la doccia mi piace tanto cantare Pensa, di Fabrizio Moro. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Porterei con me un grande bagaglio di ricordi. Chissà se ci staranno tutti, non ci ho mai pensato. E il primo che porterei è il ricordo della mia casa, i profumi, magari anche un po' di pasta, non si sa mai. Per convincerli che siamo tutti uguali, ma è un po' difficile, perché in realtà non lo siamo uguali. Noi siamo molto diversi, ma gli farei capire che la nostra diversità ci aiuta ad andare avanti, a scoprire un altro mondo, a creare un altro mondo. A volte nell'Italia non mi spiego perché la differenza possa creare diseguaglianze. Beh, questo raggio laser io lo vorrei puntare contro tutte quelle persone che vivono con i paraocchi, che non guardano chi c'è accanto a sé, guardano solo davanti, solo quello che è giusto. Beh, glielo punterei per fargli capire che questo è un paese di non stranieri, ma un paese di persone umane, diverse tra loro, ma umane. In questo momento il colore più bello. Ti direi il rosso. Il rosso perché è la cosa che ci accomuna tutti quanti, la cosa che non ci rende, che ci unisce, ecco. Io vedo che più si va avanti, più c'è un raggio di sole. Un raggio che ci aiuterà a rendere questo mondo un posto migliore. Forse non saremo noi a crearlo, ma i nostri figli, chissà. Il futuro dell'umanità sono proprio loro. Il futuro sono i piccoli. Montaggio, regia e suoni di Antonio Cortazzo e Giulio Scalona. Coordinamento tecnico Bahia Lahbub. Per ascoltare e condividere i nostri podcast, vai sulla pagina Facebook di Radio Antenna Migrante o su www.stranierincampania.it. Tram, Radio Antenna Migrante.